a Regola d'Arte, rubrica a cura dell'Unione Provinciale Artigiani di Padova e Blu Radio Veneto. Nuova puntata di A Regola d'Arte, un saluto a tutti da Francesco Galante. Vi ricordo che questo appuntamento settimanale è organizzato dall'UPA, l'Unione Provinciale Artigiani. La scorsa settimana vi abbiamo parlato del progetto Abitare di Qualità e vi avevamo segnalato l'appuntamento che era previsto all'Hotel Galileo di Padova per l'11 ottobre, intitolato Il benessere abitativo nella città futura, dove si sono trovati parecchi imprenditori. Questo appuntamento era organizzato dall'UPA, dalla CNA e da Casa Artigiani Padova, con il contributo per progetti speciali dell'EBAV, che ha permesso di mettere a fuoco i risultati di un'indagine realizzata da Local Area Network. Noi abbiamo proprio l'amministratore delegato di LAN, Local Area Network, che è Luca Romano. Benvenuto. Buongiorno a tutti. Quali sono le cose che sono venute alla luce dopo la vostra indagine proprio per il progetto di ricerca al benessere abitativo nella città futura? Sì, abbiamo condotto una ricerca, si potrebbe anche definire di marketing, anche se ha degli aspetti più legati alla modifica e alla dinamica dei bisogni abitativi in questa fase, con l'obiettivo di capire la propensione delle famiglie padovane a investimenti di carattere soprattutto rivolto a ristrutturazioni edilizie e riqualificazione energetica delle abitazioni. Il campione è stato selezionato sulla base di tre categorie di inquilini di case. Un segmento erano i grandi condomini, un segmento erano i piccoli condomini con meno di 10 appartamenti e il terzo segmento ovviamente di villette uni o bifamiliari. Questo incontro serviva anche a capire, insomma, quali sono le necessità del cittadino, del proprietario di una casa e, esatto, e anche quali possono essere le mosse per un artigiano, insomma, per trovare lavoro. Esattamente, questo era lo scopo più prosaico ma sicuramente importante della ricerca. E in realtà oggi la crisi conclamata dell'edilizia e dell'immobiliare ha un ambito che invece è in vivace crescita ed è rappresentato proprio dalle ristrutturazioni che riqualificano e valorizzano il proprio bene abitativo. Infatti, in presenza anche di generosi incentivi fiscali noti alla stragrande maggioranza della popolazione, ben il 53% dei rispondenti ci ha detto che è interessato a investire per ristrutturazioni che valorizzino sul piano del risparmio energetico la propria abitazione. Ovviamente sono emerse fasce di reddito diverse, e si va da chi è disponibile non oltre i 10.000 euro fino ai 100.000 e più, insomma, con ovviamente una maggiore quota nell'investimento del range più basso. La cosa interessante è che questo vastissimo potenziale di mercato si avvale di un canale comunicativo prevalente che è il passaparola. Sì. E l'elemento determinante per procedere poi all'intervento è sostanzialmente la fama degli artigiani. Praticamente quando un piccolo proprietario vuole aumentare il valore della propria casa, anche perché quando si va a vendere una casa la risposta energetica conta molto, penso, sul prezzo, quindi è una miglioria che molti vorrebbero fare, Come diceva lei, c'è il passaparola, no? Per cercare chi potrebbe, per esempio, cambiarci tutte le infissi della casa, i serramenti. Ed effettivamente il passaparola è ancora una di quelle cose, me ne rendo conto personalmente, che si usa di più. Mentre l'approccio per la ricerca dell'imprenditore e dell'artigiano dovrebbe essere diverso? Allora, il tema qui ovviamente nell'incontro dell'Hotel Galileo ha molto interessato gli artigiani presenti. Una delle problematiche più importanti è il fatto che questi interventi generalmente richiedono una squadra di aziende artigiane e gli interlocutori sono, diciamo, attivati, coordinati nei casi più complessi dalla presenza di professionisti e nei casi, diciamo così, di interventi più puntuali, più minuti, dalla fiducia che si stabilisce tra l'artigiano che magari svolge il ruolo di capofila e il cliente. Cos'è che porta un piccolo proprietario a decidere per uno piuttosto che per un altro? In effetti la reputazione, cioè l'elemento che alla fine sembra essere più importante è quello reputazionale, quindi si sa di un artigiano che lavora bene, che è puntuale e abbiamo osservato soprattutto nella fascia di clientela più anziana dal punto di vista anagrafico che una cosa che interessa molto è la disponibilità alla manutenzione successiva dell'intervento oppure alla tempestività di intervenire in caso di guasti o di emergenze. Questo elemento dell'affidabilità, di prossimità, è un elemento molto importante perché molto spesso la cronaca ci riporta di casi, vedi la scuola elementare recentemente a Padova, ecco, di casi di interventi fatti male di cui poi soprattutto non si trovano più gli esecutori perché erano subappaltatori di chissà chi. Quindi molto importante la questione dei servizi, diciamo così, post intervento che gli artigiani garantiscono molto spesso se sono del territorio stesso in cui avviene l'intervento. Quindi questo è un consiglio che potremmo dare a chi sta ascoltando la nostra trasmissione: se dovete effettuare dei lavori, scegliere delle ditte che sono abbastanza vicine fisicamente a casa nostra, no? Per poter essere seguiti anche in un futuro. Interessanti queste cose che continueremo ad approfondire dopo una breve pausa musicale. Tu non ascoltare le cose che non servono. Se c'è una verità la sappiamo solo noi. Queste cose si sanno solo se si vivono. Ciò che porti dentro non si dimentica. Mentre passa il tempo anche delusioni e lacrime perdono colore poi si dissolvono. Butta giù quel muro, da me non ti difendere. Che ragione e rabbia non sempre vincono. Tu ricorderai le sera pensare e rimpiangerai in un pensiero per tornare e se non capirai ricorda che si può cambiare, lo diresti mai. Che proprio noi non lo so, quando fanno perdere la lucidità. Mi dovrai pagare se tu vorrai convincermi che non era vera quella felicità. E ti ritroverà alle serate in riva al mare che non scorderà, perché ti chiamavo amore se non capirà. Ricorda che si può tornare, non diresti mai che proprio noi non lo so. Nel mio viaggio dove arriverò non lo so, per la strada A Regola d'Arte, rubrica a cura dell'Unione Provinciale Artigiani di Padova e Blu Radio Veneto. Ancora insieme con A Regola d'Arte vi stiamo raccontando di questa indagine effettuata da Local Area Network, realizzata per il progetto di ricerca al benessere abitativo nella città futura di UPA CNA e Casa Artigiani. Con noi al telefono abbiamo l'amministratore delegato di Local Area Network, Luca Romano, al quale volevo chiedere: ci sono altre cose che poi sono emerse nel convegno? Beh, una cosa importante è per esempio che il materiale più pregiato e esteticamente considerato degli interventi di ristrutturazione di questo tipo, come è noto, è il legno. E qui c'è stata una discussione piuttosto vivace, perché le persone che avevamo contattato nell'indagine hanno manifestato un'alta propensione alla scelta del legno, e poi in realtà si verifica che il mercato reale non ha la stessa consistenza di quello potenziale. E qui, diciamo così, fra le aziende c'è stata una discussione sul fatto che l'immagine di mercato del legno oggi è, diciamo così, parzialmente compromessa dall'idea che costi di più e che sia più rapidamente deperibile, cosa che in realtà ovviamente gli artigiani in questo settore smentiscono categoricamente. Vabbè, anche qua si aprono degli interrogativi. Io stesso dovrò insomma migliorare gli infissi di casa, ed è uno dei miei pensieri, no, effettivamente. Certo. Vabbè, quindi insomma valuteremo attentamente queste cose. Va bene. Allora, la ringrazio per averci raccontato quello che è successo all'Hotel Galileo lo scorso 11 ottobre in questo appuntamento interessante che si intitolava Il benessere abitativo nella città futura. Con noi l'amministratore delegato di LAN, Local Area Network, Luca Romano. Grazie e buona giornata. Altrettanto a voi e agli ascoltatori. Buongiorno. Abbiamo così raccontato questo workshop all'Hotel Galileo. Ricordo che il progetto Abitare di Qualità, promosso dall'UPA, prevede altri incontri. Ce ne sono due che vi segnaliamo. Il primo ha come titolo EPC ed ESCO, nuovi modelli contrattuali e commerciali, in collaborazione con lo IUAV di Venezia. Questo appuntamento sarà giovedì 23 novembre alle 18. E poi c'è un altro appuntamento per martedì 13 dicembre, sempre alle 18, intitolato Un modello di business per la città futura. I luoghi dove saranno effettuati questi incontri sarà comunicato nei prossimi giorni tramite il sito www.upa.padova.it e tramite le pagine social twitter.com/upapadova e facebook.com/unioneartigianipadova. Chiudiamo l'appuntamento di A Regola d'Arte, come facciamo da un po' di tempo, con la segnalazione di alcuni servizi che l'Unione Provinciale Artigiani offre ai suoi associati. Vi parlo ora del servizio qualità e innovazione, che offre agli associati la marcatura CE, la direttiva macchine e direttive strettamente collegate, la qualità e la certificazione dell'ISO 9001-2008, dell'ISO 14001 e di altre certificazioni. Affianca l'imprenditore per affrontare in termini strategici e di lungo respiro gli investimenti per l'innovazione e la certificazione dei suoi prodotti e processi. Cosa impongono le norme in materia di qualità e sicurezza dei prodotti? Come migliorare la competitività della mia azienda? Come rendersi più visibili sul mercato? È utile certificare la qualità in azienda? L'Ufficio Qualità e Innovazione dell'Unione Artigiani, Confartigianato di Padova, sviluppa percorsi di consulenza personalizzati in funzione della vostra realtà aziendale. Con la nostra collaborazione potrete identificare le soluzioni più adatte alla vostra azienda, dando una risposta ai vostri interrogativi, usufruire di servizi mirati e personalizzati a prezzi agevolati ed essere assistiti nella ricerca e nella richiesta di contributi e finanziamenti. Per informazioni, Ufficio Ambiente e Sicurezza, telefono 049 82 06 516. Sempre l'Ufficio Ambiente e Sicurezza, che risponde allo 049 82 06 516, offre il servizio Strategy, una consulenza dettagliata e personalizzata dedicata all'analisi del costo orario della propria azienda per studiare il piano più adatto per l'organizzazione e la gestione delle commesse, puntando sul risparmio di tempo e risorse per le aziende artigiane. E anche per oggi è tutto, A Regola d'Arte ritorna la prossima settimana, stessa ora e stesse frequenze. Un saluto a tutti da Francesco Galante. Avete ascoltato A Regola d'Arte, rubrica a cura dell'Unione Provinciale Artigiani di Padova e Blu Radio Veneto.